Va bene. Stiamo registrando, Umbe? Sì, quando vuoi. Vai, bello. Da piccolo mi chiamavano linguaccio, la minaccia, il procaccio, figuraccia, ora spugna, borraccia. Il fuori con Berto Zappa mi ha fatto un volta faccia. Scusa, Umbe, non volevo vomitare sul multitraccia. Ma io faccio quello che mi sento e sono contento di quello che faccio e non mento. E ci vuole coraggio a essere metto in fondo. Il mio credo è riassunto sul mio avambraccio, in culo al mondo. Ma che poeta, quale profeta, sono un semi analfabeta. Scelgo parole a caso lanciando una moneta. Ma quali testi? Io scrivo manuali per cleptomani. Ma quali pop? Noi siamo una boy band per infomani. Ma che c'è di meglio di una vita di successo? E avere una vita di successo e buttarla al cesso. Ancora adesso non trovo l'accesso per entrare in me stesso. Sono anni che busso e canto allo specchio. Sono l'omino pazzo pazzo che fa cose pazze pazze, che cammina sopra i tetti la mattina. Io vado in giro fatto fatto con in tasca un pacco di sostanze per farcire una cartina. E vivo senza regole, se l'istinto c'è ci sarà un perché. Ora sto solo vivendo il mio tempo senza crescere, consapevolmente responsabile. La domanda che mi fanno più spesso non la sopporto. Tardi a un concerto ci sono due ragioni: ho sbagliato aereo, sono all'aeroporto tra finanziere e cani. Una volta ho detto jet, vado al bar a bere un Grand Marnier, poi sono andato in Madagascar con una hostess e la lauda. Non resisto alle donne, è una mania, una malattia, l'ha detto anche il mio psichiatra, non è colpa mia. Poi m'ha denunciato, m'ha beccato col bozzo calato in compagnia di sua figlia, imboscato in infermeria. Ma quale autodistruzione, io sto una favola, ho un fisico perfetto, in pratica un adone. Ho una formula magica, addominali a tavola, ginnastica nel letto e bicipiti al bancone. Sono l'omino pazzo pazzo che fa cose pazze pazze, che cammina sopra i tetti la mattina. Ma io mi avvicino 4-4 quando vedo un tacco dentro i boxer, mi si accende una turbina e vivo senza regole. Se l'istinto c'è ci sarà un perché. Ora sto solo vivendo il mio tempo senza crescere, consapevolmente responsabile. Appresi con chi ero fidanzato dai rotocalchi per mesi. Mi sono sbagliato, pensavo di stare con Anna Falchi. Così ogni fidanzata che vuole essere ingravidata, ma per poi farmi la tata. Il 40% delle donne ce l'ha con me, perché sto scendo con l'altro 60 e quel 40 sono le mie ex, che furono a ragione severe carceriere. Io ti invito a cena tutte le sere per vedere il sedere delle cameriere. Finché morte non ci separi, chiere Lenson. Festeggio anniversari giocando alla PlayStation. Ma che matrimonio, io voglio sperperare un patrimonio, morire in manicomio, andare all'inferno e far impazzire il demonio. Tu scrivi a chi l'ha visto, se leggi che sparisco, perché sono presente, attento e visto, insisto. Con il mic pesto, sopra un mix misto, coi miei tricks pesto, questa hit disco. E resto l'omino pazzo pazzo che fa cose pazze pazze, che cammina sopra i tetti la mattina. Ho fatto un patto con un matto, obbligo rimpatto sul contratto, il nostro disco brucia la puntina. E vivo senza regole, se l'istinto c'è ci sarà un perché. Ora sto solo vivendo il mio tempo senza.